Gabbiano. Il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Potremmo iniziare definendola una donna senza confini da nessun punto di vista. È una donna dal carattere speciale, o una di quelle persone con una marcia in più, con una vitalità, con una energia incontenibili. È una grinta che forse lei ha nel DNA. E oltretutto una donna, una cantante, vi svelo il primo indizio, con una mentalità assolutamente poco italiana, una mentalità internazionale, qualcosa che la portata a essere sempre un passo avanti in tutto quello che ha fatto. Una grandissima cantante, una mia amica personale che conosco da molti anni, dagli anni 80. Recentemente ho anche avuto il piacere di collaborare con lei in un progetto bellissimo del quale vi parlerò tra poco. Bellissimo non perché c'ero io, bellissimo in sé. Oggi dedichiamo la nostra puntata al Gian Burrasca della canzone italiana. Pelle di carota, Small Wonder, tanti soprannomi, perché tantissime sono le cose che ha fatto e che sta facendo tuttora. Ormai l'avrete capito, sto parlando di Rita Pavone. Ce l'avete chiesta in tantissimi, Rita Pavone, e a dimostrazione di quanto il pubblico la ami da così tanto tempo, una carriera che dura dal lontano 62, 55 anni di successi in Italia e all'estero, dove lei ha veramente sbancato. Ho detto 55 anni, ma non mettetevi a fare i conti con troppa malizia, perché stiamo parlando di una persona che ha iniziato veramente giovanissima, da bambina. Ha scalato le classifiche europee, le classifiche americane, un trionfo senza fine, 50 milioni di dischi venduti e un amore sconfinato che il pubblico di tutto il mondo le ha sempre dimostrato. Come te non c'è nessuno. Non potevamo che iniziare così, Come te non c'è nessuno, che peraltro è uno dei suoi successi più grandi. È una canzone del 63 che sembra un po' una premonizione di quello che sarebbe diventata Rita nel corso degli anni. Lei è veramente unica, come lei non c'è nessuno. Caratteristiche vocali, di stile, di scelte artistiche che ne hanno fatto un fenomeno a sé stante nel panorama musicale italiano, e sicuramente i suoi competitor sono più di respiro internazionale che all'interno dei nostri piccoli confini. E vediamo allora di ripercorrere la vita, le tappe della carriera di Rita Pavone fino a oggi. Sarà molto difficile raccontare tutto di lei, ci vorrebbe più di una puntata. Dobbiamo parlare di canzoni famosissime, di film, di sceneggiati televisivi, di lavori teatrali, di concerti in giro per il mondo, e c'è veramente molta carne al fuoco. 23 agosto 45, Torino, nasce lei, Rita Pavone. La mamma Maria, il papà Giovanni, è Nostromo in Marina durante la guerra e poi trova lavoro, come quasi tutti i torinesi di quel periodo, come tornitore alla Fiat. Lei è la quarta di cinque fratelli, anche se il maggiore lei non lo conoscerà mai, perché purtroppo muore a 2 anni. Poi ci sono Piero e Carlo, dopo di lei arriva Cesare, insomma l'unica femmina, e che ovviamente diventa la preferita del padre. Pesa 6 kg alla nascita, è strano a dirsi per un personaggio insomma così nota anche per essere minuta. Lei ha sempre detto che insomma è stata l'unica volta che era la più grande di tutti, perché stiamo parlando anche di una donna molto autoironica, molto spiritosa. E i Pavone non sono ricchi, lavora solo il padre, sono in 6, una famiglia felice, unita. E poi c'è lei che è una forza della natura, che a 3 anni sale sul tavolo e comincia a cantare, che canta canzoni che lei conosce perché un amico del padre le porta i dischi stranieri, quindi che già a 3 anni canta canzoni che l'Italia non conosce. Il papà comincia a convincersi che nel suo destino ci sia quello di fare la cantante, e vedremo quanto sarà importante questa convinzione del padre. 1959, 14 anni, Teatro Alfieri di Torino, spettacolo per bambini. Ecco cosa scrive lei stessa nella sua biografia Tutti pazzi per Rita, realizzata con un bravo giornalista e scrittore, cioè Emilio Targia. Un'emozione pazzesca. Se ci penso ancora oggi ho la pelle d'oca. Per la prima volta nella mia vita non cantavo nel salotto di casa. Ero in un teatro importante, davanti a un pubblico vero che mi applaudiva con affetto. Ebbi una tale scarica di adrenalina che mi venne persino la febbre e dovetti stare a letto per una settimana. Fu proprio allora che capii che cantare per me non era un gioco o un divertimento, era quello che volevo fare per tutta la vita. A 14 anni lei ha già le idee chiare, questo è tipico di Rita Pavone, che è, potremmo dire che è una donna tutta d'un pezzo, ha dimostrato in tanti momenti della sua vita una determinazione veramente speciale. E va anche detto che all'epoca del debutto lei sta già lavorando perché la famiglia ha bisogno anche del suo aiuto economico. Lei ha 12 anni, sta lavorando in una camiceria, deve alzarsi tutte le mattine alle 4:30 e arriva a sera che è stanca morta. Ovviamente lascia la scuola, prova a fare corsi festivi per gli studenti lavoratori, ma non ce la fa, abbandona gli studi e lo fa con tanto dispiacere, tanto che poi lei ha studiato tantissimo da sola, ha imparato bene molte lingue, perché è una che canta in francese, in inglese, in tedesco, in spagnolo, in giapponese, e nella camiceria lavora dal 57 al 61, dai 12 ai 16 anni, però continua a ascoltare i suoi cantanti preferiti, che sono Jerry Lee Lewis, Fats Domino, Eddie Cochran, Bobby Darin. Il papà è talmente convinto del suo talento che continua a incentivarla, le dice: vedrai Rita, un giorno tu sarai qualcuno, e aveva ragione, presagiva già che lei sarebbe arrivata in cima, e lo avrebbe detto anche lei in una famosissima canzone. Il cucuzzolo della montagna con la neve alta così, per la valle noi scenderemo con i piedi un paio di sci sci, dal cucuzzolo della montagna su un cielo tinto col blu, con in testa un passo montagna scenderemo sempre più in giù. Il papà, determinato quanto lei, continua a portarla in giro per i locali di Torino, la propone a tutti, ma lei è piccola, ha 15-16 anni, in più è proprio piccola, sembra ancora più giovane, con lui canta in tanti locali, viene notata da un impresario che le propone un tour tra Piemonte e Liguria, e a questo punto lei si guadagna il suo primo soprannome, la Paul anche in gonnella. Eh sì, perché a lei piacciono le canzoni del cantante canadese di Paul Anka, che diventeranno una parte fondamentale del suo repertorio. Poi canta anche delle canzoni di Mina, però per quel periodo non succede nulla di particolare. Lei comincia a far fatica a conciliare il lavoro della camiciaia con quello della cantante, spesso ha delle crisi, pensa di piantarla lì, ma il padre non molla, è lui che va avanti ferreo nella sua convinzione. Nel 62 iscrive Rita di nascosto a un nuovo concorso, Canoro, la festa degli sconosciuti di Ariccia, vicino a Roma. È una festa particolare che diventerà mitica negli anni, promossa dall'RCA e da un cantante e discografico che ha voglia di lanciare nuovi talenti. Questo cantante e discografico si chiama Teddy Reno. Per partecipare a questo concorso prima bisogna fare un'audizione a Roma, se si viene selezionati si va a Riccia. E in casa Pavone scoppia un putiferio, il protagonista di questo putiferio è un frigorifero. I miei genitori litigarono in modo furibondo e poi mia madre tirò fuori l'argomento definitivo. Comunque non abbiamo i soldi per andare a Roma, tantomeno ad Ariccia, quindi facciamola finita. Veramente? Sussurrò papà con voce timida ma sicura. Ci sarebbero i soldi del frigorifero. Fu come assistere all'esplosione di una bomba. Per un attimo temetti che la mamma gli sarebbe saltata addosso per strozzarlo. A quel tempo noi a casa avevamo ancora la ghiacciaia, una scatola di legno con dentro il ghiaccio per tenere freschi gli alimenti. Ma tutte le amiche di mia mamma avevano già il frigorifero e lei moriva di invidia. Aveva fatto molta fatica per mettere da parte un gruzzoletto. Ancora qualche risparmio e poi avrebbe finalmente messo le mani sul suo oggetto del desiderio. «Cosa? Io devo rinunciare al mio frigorifero?» urlò mia madre. «La vita di nostra figlia vale molto più di un frigorifero», sentenziò mio padre, e con quella frase epica vinse la sua guerra. E il padre vince, niente frigorifero, si va a Roma alle preselezioni del Festival di Ariccia. E l'abbiamo detto, questo festival lo organizza Teddy Reno, nome d'arte di Ferruccio Ricordi, un triestino, un cantante famosissimo, un discografico, un produttore, un talent scout che risiede a Ariccia, è l'assessore alla cultura di questo paese vicino a Roma. È una manifestazione canora di grande prestigio in quegli anni. Nel corso del tempo scoprirà gente come Claudio Baglioni, c'è la bella Ivan Cattaneo. E lei arriva accompagnata dalla madre negli studi dell'RCA, i mitici studi via Tiburtina, chilometro 12. Lei arriva a Roma il 31 agosto del 62. Quel giorno lei incontra per la prima volta Teddy Reno, che diventerà prima il suo pigmalione, il suo manager e poi il suo marito. Ricordo perfettamente l'istante in cui lo vidi per la prima volta. Era di una bellezza luminosa, rassicurante, con quella camicia azzurra che gli calzava alla perfezione e la giacca di daino appoggiata sulle spalle. Provai una sensazione strana, come un brivido leggero ma inequivocabile. Una vocina lontana mi sussurrò che il signor Ferruccio, come l'ho chiamato fin da subito dandogli del lei, sarebbe stato una presenza molto importante nella mia vita, al di là della festa degli sconosciuti e degli impegni professionali. Ma quelle sensazioni erano ancora troppo flebili, indistinte, lontane anni luce da quello che sarebbe successo poi. E adesso bisogna fare due conti. Rita ha compiuto 17 anni da pochi giorni, Teddy Reno ne ha fatti 36, 19 anni di differenza. Lui è sposato, anche se solo con rito civile, con Vania Protti, ha un figlio, Franco, i due sono separati, ma in Italia non c'è il divorzio, quindi per la legge e anche per l'opinione pubblica lui è un uomo sposato. E questa è una faccenda sulla quale torneremo, e nel frattempo conta dire che Rita passa le selezioni di Roma, va a Riccia, vince il Festival degli Sconosciuti portando un successo di mina, Molendo Caffè, soprattutto sbaraglia gli altri concorrenti. È una grande carica, una forza straordinaria, è un talento già ben definito e questo colpisce gli ospiti e i giurati. Ricordiamo qualcuno che c'era quell'anno al Festival degli Sconosciuti di Riccia, perché forse non avete ancora la percezione di cosa fosse quel festival. C'erano Totò, Domenico Modugno, Alberto Sordi, Anthony Quinn e Carlo D'Apporto. E il giorno dopo tutti stanno parlando di quella bambina dalla voce straordinaria, dalla personalità di fuoco come i suoi capelli rossi. Che mi importa se sono pelo di carota, meglio per la testa rossa che la testa tutta vuota. Che mi importa se ho un nasino dispettoso, non nasconder che è per questo che ti piaccio, piaccio. Rita firma un contratto discografico con l'RCA, si trasferisce a Roma con la mamma e l'RCA ha appena messo sotto contratto un altro giovane di talento che fa subito amicizia con Rita. Ha una storia simile alla sua, anche lui è di umili origini, anche lui dovrà studiare poi nella vita, assecondando la sua grande curiosità, anche lui è destinato a un enorme successo. Si chiama Gianni Morandi, è un'amicizia che va avanti ancora oggi. Forse si dice che all'inizio Gianni si sia preso una cottarella per Rita, ma stiamo parlando veramente di ragazzini e alla fine quello che conta è un forte sentimento di amicizia, anche quando i giornali vorranno costruire una rivalità tra i due solo per scopi pubblicitari. Intanto l'RCA e Teddy Reno stanno studiando il lancio di Rita Pavone, trovano il brano giusto destinato a segnare un'epoca e a lanciare Rita nel firmamento delle stelle. Il brano perfetto per Rita lo ha scritto Edoardo Vianello, uno che di hit se ne intendeva in quegli anni, ed è La partita di pallone. Perché? Una canzone azzeccatissima che inquadra alla perfezione l'Italia di quegli anni, la fotografa, la grande ubriacatura che molti avevano per il calcio, che diventa sempre più sport di massa. La canzone ha un successo straordinario, se ne accorgono anche in Rai, da poco è stato inaugurato il secondo canale. Lei potrebbe essere adatta per questo canale, che dovrebbe essere un po' più all'avanguardia rispetto al primo, fatto per attirare un pubblico più giovane. Così viene chiamata a partecipare al programma Alta Pressione, regista il grande Enzo Trapani, presentatore un certo Walter Chiari. È il battesimo televisivo di Rita, che piace molto non solo al pubblico ma anche ai vertici Rai. Viene contattata da Guido Sacerdote, autore, assieme al mitico regista Antonello Falqui. La coppia di Falqui e Sacerdote era una coppia mitica in quegli anni. La trasmissione è Studio 1, la punta di diamante della televisione di quegli anni, il programma del sabato sera del primo canale, quando i canali erano due, quindi si parla di milioni di telespettatori, ma milioni, tanti, non come oggi. E a lei viene proposto di diventare l'ospite fissa di tutte le 12 puntate della stagione 62-63 di Studio 1. Bisogna dire che la Rai quell'anno non può contare su Mina, che era stata la regina dello show dell'anno prima, perché lei sta aspettando un figlio da Corrado Pani e nascerà Massimiliano Pani. E anche lì è una gravidanza molto controversa, perché Mina non è sposata, perché Corrado Pani, insomma, è un po' un tombeur de femme. La Rai preferisce non evidenziarla, insomma, sono anni, erano passati pochi anni da quando Fausto Coppi aveva dovuto fare un figlio all'estero perché la dama bianca era sposata. Insomma, è un'Italia particolare. A questo punto, insomma, in questo scenario, Mina non può partecipare e viene fatta questa proposta a Rita Pavone, che a 17 anni viene preferita a cantanti più mature e affermate come la Vanoni e la Zanicchi. L'RCA ha dei dubbi, perché hanno paura, chissà se ce la farà, che è una ragazzina, temono di bruciarla, temono di esporla troppo in quella che è la trasmissione di punti della Rai. E non è un dubbio infondato, ma Rita non la pensa così. Non ero affatto spaventata. Non era presunzione la mia, ma consapevolezza. Dopo gli anni di gavetta e formazione, ero sicurissima di poter affrontare perfettamente l'onere di quell'impegno. Anzi, non vedevo l'ora di poter dimostrare il mio valore senza se e senza ma, facendo la cosa che mi piaceva di più in assoluto: cantare. Era arrivato il mio momento e io ero pronta. Studio 1 è un programma entusiasmante, l'Italia è stata segnata da programmi di quel genere, stiamo parlando di Walter Chiari, del Quartetto Cetra, le Bluebell Girl e Don Lurio che cura le coreografie. Per attirare l'attenzione dei giovani, Teddy Reno setaccia le migliori scuole di ballo di Roma e Don Lurio seleziona 8 ragazzi e 8 ragazze che diventeranno i mitici i collettoni e le collettine. È un corpo di ballo che seguirà Rita Pavone in molti suoi lavori. E tanto per dirvi, in mezzo ai collettoni, alle collettine di Rita Pavone, c'è Renato Zero, c'è Loredana Bertè, c'è Stefania Rotolo, questo anche per dirvi, insomma, il fiuto che ha Teddy Reno come talent scout. E nel frattempo Rita sta scalando le classifiche, successi che infila uno dietro l'altro, perché ci sono canzoni che lei canta nelle 12 puntate di Studio 1, e lì bastava un passaggio televisivo azzeccato per vedere cambiata la tua vita. C'è un fenomeno forse unico: a un certo punto la Pavone supera se stessa nella classifica dei 45 giri, e tutto questo alla sua età. Il falco e il gabbiano. Stiamo parlando di una donna dalla forza straordinaria, un talento senza confine, una grinta incontenibile. Stiamo parlando di Rita Pavone, che in una carriera interminabile e interminata ha calcato i palcoscenici di tutto il mondo, ha cantato canzoni di successo enorme, entrate nella storia della musica e che sono diventate la colonna sonora delle vite di due o tre generazioni minimo. Lei è un artista a tutto tondo, ha recitato in televisione, al cinema, al teatro, è stata conduttrice, autrice, produttrice, talent scout, assieme a quello che sta per diventare suo marito, cioè Teddy Reno, sta per diventarlo nella storia che stiamo raccontando. Oltretutto è anche un artista che è riuscito a resistere alla pressione. Molti si sono persi, non ce l'hanno fatta dal punto di vista, come dire, psicologico. Lei invece ha avuto una vita privata molto appagante, peraltro ha avuto anche due figli ed è rimasta con lo stesso marito per tutta la vita, altra cosa rarissima. È sempre stato un passo avanti nelle sue scelte, è riuscita a mantenere una costante in così tanti anni sotto i riflettori, cioè l'amore del pubblico. Per ora siamo arrivati all'aprile del 63, lei ha scalato le classifiche dei 45 giri, il suo primo primo album, Rita Pavone, che come accadeva in quegli anni contiene tutti i suoi successi, va a Ruba. Dopo pochi mesi dal suo esordio al Festival degli Sconosciuti di Ariccia le viene consegnato il disco d'oro per aver venduto 1 milione di copie, perché allora il disco d'oro non te lo davano con le visualizzazioni, te lo davano a 1 milione di copie vendute. E ci sono tutti i suoi grandi successi in questo album: La partita di pallone, Come te non c'è nessuno, Sul cucuzzolo, Le lentiggini, Pel di carota, Alla mia età e il famosissimo Ballo del mattone. In quei primi mesi del 63 lei è dappertutto, in televisione, alla radio, a teatro, fa i caroselli. Il suo fenomeno non passa inosservato all'estero, parlano di lei, della classifica, diciamo, pavone contro pavone, cioè quando un suo pezzo scalzava l'altro dalle vette della classifica, ne parlano negli Stati Uniti. L'idea naturalmente di andare a cercare successo anche all'estero alletta molto Rita. Lei comincia a cantare brani che sono delle hit straniere, perché le piacciono le hit straniere. Uno dei primi brani che lei canta è una canzone francese, Cœur, che in origine è una canzone americana, Art, cantata da un giovanissimo Wayne Newton, scoperto e prodotto da Bobby Darin. E questa canzone, Cœur, Art, in Italia diventerà ovviamente Cuore. Mio cuore. Questo brano, insieme a altri successi tradotti in francese, apre a Rita le porte dell'Olympia di Parigi, dove lei canta a 17 anni. E si stanno accorgendo di lei in tutta Europa, in Germania comincia a vendere, e la Germania sarà sempre uno dei paesi dove Rita Pavone ha più successo nel mondo, insieme al Brasile. Intanto rientra in Italia, arriva al secondo disco d'oro, un'altra milionata di copie con Cuore, e Rita continua con questi successi stellari. Nel 64 c'è un altro 45 giri destinato a far storia, e sul lato B c'è una canzone bellissima che si chiama Che mi importa del mondo, ma il lato A è qualcosa di strepitoso, la versione italiana di If I Had a Hammer di Pete Seeger, tradotta letteralmente Datemi un martello. E questo disco sfonda ovviamente in Italia, ma anche in Brasile, che da quel momento diventa un po' la seconda patria per Rita. E si fanno avanti anche gli spagnoli, arrivano richieste dall'America Latina, tutti si stanno accorgendo di Rita Pavone. Questo fenomeno non passa inosservato neanche negli Stati Uniti. L'RCA ha una sede statunitense, ovviamente, negli Stati Uniti, e le propone di realizzare un album in lingua inglese da pubblicare in tutto il mondo, The International Teenage Sensations. Viene realizzato e registrato a New York, dove lei vola naturalmente coi genitori e con Teddy Reno. Ha un successo tale che Rita Pavone viene invitata all'Ed Sullivan Show, forse lo show più noto del pianeta, 50 milioni di americani di media. È il 17 marzo del 64, lei sta per compiere 19 anni, piace così tanto agli americani che Ed Sullivan la invita per altre 4 puntate, e intanto a casa c'è un altro grande progetto che la sta aspettando. Eh sì, viva la papa col pomodoro, l'inno, l'emblema del mitico Gian Burrasca, Giannino Stoppani, che è il protagonista di un libro per bambini di Vamba, lo pseudonimo di Luigi Bertelli. Lina Vermüller ha trasposto per la televisione Il giornalino di Gian Burrasca, un progetto che nasce come pomeridiano per la TV dei ragazzi, ma che una volta realizzato rivela potenzialità ben più alte. Insomma, tutti si rendono conto che il livello è alto, sarebbe uno spreco, ma mandarlo in onda nel pomeriggio. Le musiche sono di Nino Rota, i costumi di Piero Tosi, quello che aveva lavorato dal Gatto Pardo di Luchino Visconti, i personaggi sono Bice Valori e Arnoldo Foà, Paolo Ferrari, Ivo Garrani, Elsa Merlini, Carlo Crocolo, Enzo Garinei, cioè il gota della recitazione, e c'è anche Valeria Valeri. Insomma, un cast straordinario. 8 puntate di Gian Burrasca che vanno in onda dal 19 dicembre del 64 il sabato sera in prima serata sul primo canale. Ci sono persone che lo ricordano perché c'erano, oppure perché lo hanno visto successivamente, perché è stata, insomma, è parte della storia della televisione, è un capolavoro assoluto. E lei si cala perfettamente nei panni non facili di un ragazzino monello, ma sincero, con una sua particolare etica. Per imparare come si muove un maschio, lei si era ispirata ai suoi tre fratelli. Gian Burrasca diventa un cult televisivo e lei lì veramente passa ulteriormente di grado. E intanto però continua i suoi successi come cantante. Nel 65 vince il Cantagiro, poi è protagonista di un programma televisivo, Stasera Rita, poi partecipa di nuovo a Studio 1, poi scala le classifiche con il Gegege e poi arriva fortissimo. E perché lei va fortissimo. Pianissimo, te lo dico, pianissimo. Il falco e il gabbiano. Rita Pavone è richiesta in tutto il mondo. Chi ha avuto la fortuna, io ce l'ho avuta, di andare a casa sua, trova foto con i Beatles, con Cassius Clay, con tutto il gotha di quel periodo, tutti a cercare di conoscerla. A Rio de Janeiro danno il suo nome a un tram e le bambine di quella generazione si chiamano tutte Rita. Lei è famosissima negli Stati Uniti, canta alla Carnegie Hall di New York quando non ha ancora 20 anni, realizza un secondo album americano, Small Wonder, Piccolo Miracolo, e Small Wonder diventa un altro dei suoi soprannomi. E lì c'è un momento particolare, le viene proposto di trasferirsi negli Stati Uniti, lei è ancora minorenne perché in quegli anni si diventava maggiorenne a 21 anni, i suoi non vogliono, alla fine lei rinuncia a quell'offerta e questo forse è l'unico rammarico, è un bivio della sua carriera, perché chissà cosa sarebbe diventata se fosse andata a vivere lì in quel momento, ma non ci possiamo lamentare, direi, perché intanto i successi non le mancano, vince il Cantagiro, inizia una fortunatissima serie di musicarelli che erano quei film incentrati su una canzone, su un cantante di grande fama, ne realizza tantissimi, Rita la figlia americana con Totò, Little Rita nel West con Terence Hill e con Lucio Dalla giovanissimo, Rita la zanzara con Giancarlo Giannini e Peppino De Filippo, insomma erano film con un cast stellare e un cantante che cantava i suoi successi. In questo periodo Rita conquista anche il difficilissimo, direi impossibile, mercato britannico con la versione inglese di Cuore. Intanto ha compiuto 21 anni, è maggiorenne e a questo punto accade qualcosa nella sua vita destinato a cambiare tutto, con anche dei risvolti amari per colpa di una mentalità assolutamente chiusa e provinciale. Era l'epoca delle calze contenitive alle Kessler finché non si vedessero le gambe, insomma è una scelta di grande libertà e di grande amore, e la storia ha dato ragione a lei peraltro. Da quel lontano 31 agosto del 62 Rita e Teddy hanno cominciato a vivere una vita assieme, andandosi a prendere tutto il mondo, andando a mietere successi ovunque, e qualcosa evidentemente covava sotto la cenere, e qualcosa che la gelosia fa esplodere, cioè l'amore, uno delle cartine al tornasole dell'amore, proprio quando ti accorgi di essere geloso, e così accade. Prima di dichiararci il nostro amore, ci dichiarammo la nostra gelosia. Io iniziavo a intuire i miei e i suoi sentimenti, ma non avevo il coraggio di agire, in parte perché, grazie al cielo, tutte le mie faccende di lavoro mi tenevano impegnata giorno e notte, in parte perché era la prima volta che mi trovavo a fronteggiare un'emozione così potente come quella che provavo per lui. Insomma, i due si innamorano perdutamente. I giornali scrivono qualsiasi cosa. 19 anni in quel periodo erano uno scandalo, 19 anni di differenza. E loro, peraltro, con la loro vita smentiscono il tutto, perché sono ancora assieme, hanno due figli, Alessandro e Giorgio. Insomma, il tempo ha parlato per loro, anche questa volta lei ha avuto ragione. Ma ricordiamoci che in quegli anni lui era sposato anche se separato, aveva un figlio precedente, insomma era una faccenda veramente scandalosa. Padre di Rita si oppone con tale forza a questa unione che arriva a spingere giù dalle scale di casa Teddy Reno, che era andato da lui per chiedere a Rita in sposa, osso del gomito fratturato. Rita, che è sempre molto spiritosa, dirà che per avere la sua mano Teddy Reno ci aveva rimesso un braccio. Ma loro sono innamoratissimi, vanno avanti per la loro strada, si sposano in chiesa a Lugano nel 68, poi si sposeranno anche con il rito civile anche in Italia. Questo probabilmente è uno dei colpi d'ala più grandi e più belli che Rita Pavone ha dato nella sua vita. In Italia non le perdonano questa storia d'amore, almeno inizialmente, e la raia dei canoni morali terribili. Insomma, lei diventa un personaggio scomodo, e ovviamente all'estero invece non c'è niente di male. Loro capiscono, Rita e Teddy si trasferiscono a vivere in Svizzera e vivono e risiedono tuttora lì. Poi gli anni passano, la morsa si allenta e alla fine la RAI le propone un programma molto bello, Ciao Rita, che è cucito attorno a lei. Poi partecipa anche a Sanremo nel 72 con una canzone molto raffinata che si chiama Amici Mai. Ma carezzavi e mi chiedevi, dimmi amore di chi sei. E qua bisogna sfiorare e il resto, perché sennò non si fa tempo. Teatro con Macario, con Carlo D'Apporto, con Piero Mazzarella, e poi reciterà con Renzo Montagnani facendo Shakespeare, e poi il ruolo di Gelsomina, che era stato della grandissima Giulietta Masina nella Strada di Fellini con Fabio Testi. Poi negli anni 80 all'esordio come cantautrice con un album che si chiama Dimensione Donna, poi l'album Gemma e le altre, che vede la sua collaborazione con un grandissimo artista, un grande cantautore, amico comune, che si chiama Dario Gai. Poi ancora all'estero con uno spettacolo che in qualche modo forse voleva ricapitolare la sua vita, La mia favola infinita, siamo nel 2005, poi un problema al cuore, anche serio, che lei supera benissimo con la grinta di sempre. Si deve riposare un po', poi nel 2010, in occasione dei 60 anni di Renato Zero, lei torna sul palco con lui, insomma capisce che bisogna ricominciare. Rita is back, nome del nuovo tour che parte il 30 aprile del 2014, e lì lei presenta il suo nuovo album. Era il suo sogno, me ne aveva parlato tante volte, un album dei grandi classici che lei amava tradotti in italiano, e io sono stato chiamato a fare proprio questo. Se potessi amarti ancora non saresti solo mai, è tutto quello che tu cerchi. Un doppio CD con 15 cover di classici della musica inglese tradotti in italiano, è un lavoro straordinario. Nel 2016 partecipa a Ballando con le Stelle, dove è bravissima, mostra tutta la sua verve. E per parlare di Rita, della nostra protagonista, di Rita Pavone, abbiamo qui proprio il giornalista, lo scrittore che ha collaborato con Rita per la sua biografia Tutti pazzi per Rita, la biografia dalla quale vi abbiamo fatto sentire diversi passaggi. E abbiamo Emilio Targia. Buongiorno Emilio. Buongiorno a te Enrico, buon pomeriggio a chi ci ascolta. Ciao Emilio, senti, allora stiamo raccontando insomma una donna assolutamente particolare, super vulcanica come Rita Pavone. E intanto il tuo giudizio sull'artista Rita, come ha cambiato e qual è il peso che ha avuto nella musica italiana secondo te? Beh, insomma, il peso è clamoroso, è probabilmente la prima vera beat star della nostra storia, tu che sei anche attento studioso poi della musica di quegli anni, non ti sarà sfuggito che era, certo, era ben oltre che una tendenza, era una nuova porta che si apriva, un po' come fu Modugno per un altro palazzo che si apriva, nel quale poi, no, sei entrato anche tu. in quel tipo di palazzo. Rita ha aperto quella porta, anche in parte inconsapevolmente, perché chiaramente il clamoroso successo che ha avuto, era giovanissima, e la cosa incredibile è che la sua formazione è stata talmente dura, talmente forte, chi leggerà il libro o chi ha già letto scoprirà alcuni episodi che sono quelli che poi formano il carattere, perché non c'è niente da fare, con tutto il bene che vogliamo a X Factor, a tutti gli altri talent show, la strada, il palcoscenico, le anticamere negli alberghi dove si fanno dei piccoli spettacoli, sono tutte cose che formano in maniera incredibile una solidità di artista che poi ti ritrovi fino a 100 anni. Da quel punto di vista lì, Rita è riuscita a reggere, a non farsi schiacciare dal peso clamoroso. Ricordiamo ai più giovani che gli ascolti di Studio 1, dove Rita debuttò in televisione, erano quelli di una finale di Coppa del Mondo di oggi, anzi sì, probabilmente anche molto di più, sì, ed sì, era una cosa su cui potevi morire a 16 anni, 17 anni, 18 anni. Rita è riuscita a reggere non solo, ma a far tesoro di quel peso e trasformarlo in qualcosa di luminoso, soprattutto senza mai ripetersi, perché anche quello era il rischio, nonostante i discografici, come tu ben sai, provassero a infilarti sempre sulla stessa scia. Lei ha avuto anche la fortuna di avere un grandissimo manager, che certo, era anche il suo amore della vita, che è Ferruccio, che è Teddy Reno, e grazie anche, ovviamente, non solo da solo, ma grazie anche a lui, è riuscita a prendere strade che credo siano state quelle giuste, salvo che poi la grande avventura americana, per volere del padre, non è esplosa come avrebbe potuto, e quello magari è un cruccio, però per fortuna dall'altra parte, perché poi ha regalato pagine importanti a noi, probabilmente più che agli Stati Uniti. Certo, e questo, diciamo così, spiega i primi 20, 25, 30 anni di carriera, sì, e però sì, gli anni di carriera sono 50, cioè noi abbiamo sì, di fronte una combattente, una che è passata anche attraverso un momento particolarmente difficile, diciamo, dal punto di vista fisico, ne è uscita più forte di prima. Cioè, perché questi artisti, gli artisti di quella generazione, hanno una corazza, una capacità di affrontare le guerre 100 volte superiore a questi ragazzini che, se non gli funziona un air monitor, si mettono a piangere? Poi però devi spiegare cos'è un air monitor. L'air monitor sono quelle cuffiette che adesso, una volta, quelli veri usano le spie, però adesso invece fanno molto queste cuffiette che ti insegnano a mettere nei talent. Ecco, quello, se non ti va la cuffietta, magari si mette a piangere al terzo pezzo. E allora, invece Rita passa attraverso queste cose e ne esce più forte di prima. Allora, asterisco, fallo con me, ti prego, se vi non funziona l'air monitor, compratevi un giradischi e mettete il vinile, scoprirete un mondo pazzesco che non credevate nemmeno che esistesse, punto. Lo so. Andiamo avanti, perché Rita ha, innanzitutto perché Rita è Rita, e quindi lì c'è qualcosa nei geni che funziona in una maniera agli uomini sconosciuta, ballando con le stelle, e un territorio non suo l'ha quasi vinto con una costola rotta alla sua età, quindi io l'ho vista allenarsi, mi sono messo paura, perché insomma, voglio dire, tutti noi che ci lamentiamo per le nostre miserie quotidiane, lei è una cosa che fa, non ti lamenta mai, nemmeno con la costola rotta, chiusa parentesi. Da questo punto di vista Rita è riuscita a gestire il successo, non certo gestire, nemmeno a vivere il successo in un certo modo, perché si dà sempre delle nuove mete, non si ferma mai, per cui quello che tu immagini intendi è il percorso, il secondo percorso di Rita, le mille vite, diciamo che ne abbiamo raccontate 500, passiamo alle seconde 500, sì. C'è un album che è quello un po' di transizione, come fu forse per Battisti e già, no? Con una tipicità diversa, che è Gemma e le altre, in cui Rita comincia a scrivere anche, in cui scrive anche dei pezzi meravigliosi, purtroppo sconosciuti a più, andate a ripescare in qualche modo, in cui parla anche di omosessualità, di temi che non aveva, insomma, mai toccato prima, e lo fa un po' da cantautrice, e lo fa bene, secondo me, forse troppo bene, perché poi c'è uno stacco quasi scioccante con il suo passato. Poi finisce un altro percorso, che è quello di ripescare, al quale tu hai brillantemente partecipato, tu non lo dici ma lo dico io, perché tradurre i classici di che vanno da Frank Sinatra a Bobby Darin, a nomi clamorosi, anche qui invito i più giovani a andarseli a prendere e scoprire un mondo meraviglioso, lei si è autoprodotta un disco che probabilmente non avrebbe trovato mercato se non con un'autoproduzione, cantando in diretta con l'orchestra, ripescando tutti i brani più belli della sua Ma un disco che in altre parti del mondo avrebbe venduto centinaia di migliaia di cose, sarebbe diventato proprio uno di quei dischi che ognuno doveva avere in casa. Esattamente, quindi Masters, che non per niente si chiama Masters, andatelo a riprendere perché è un doppio album in cui non solo si fa un servizio alla musica e che si ripescano appunto classici, ti ho detto Frank Sinatra, Bobby Darin, ma ce ne sono tantissimi altri, tu hai tradotto brillantemente cose difficilmente traducibili, te lo dico io, e la parte italiana aiuta poi a riascoltare la parte in inglese, è vero, quindi, vero. Ma è un disco che è lontano oceani dal Jegge, da Fortissimo, dal Ballo del Mattone, dalla Pappa col Pomodoro. È un disco lontanissimo, quasi, vi dico una cosa, Pupi Avati, la figlia gli ha regalato una chiavetta con dentro questo disco, senza fargli vedere la copertina. Pupi Avati, che insomma è un cultore della musica jazz, del soul, eccetera, eccetera, non ha riconosciuto Rita, che è una sua amica da, insomma, certo, qualche decina d'anni. Questo è per dire, per dire la poliedricità, certo, e poi tu dici, dopo gravi guai fisici lei aveva permesso di cantare, un giorno la chiama Renato Zero per invitarla alla sua festa di 60 anni a Piazza di Siena, lei dice praticamente quasi dice no grazie, poi fortunatamente ci ripensa, riallena la voce perché lei è una professionista totale, certo. Se deve fare un'ospitata di 3 minuti lei si prepara un mese, ecco, e quel giorno a Piazza di Siena io ho visto tutti i concerti di Renato Zero, tutti gli 8 concerti ho visto alternarsi 30-40 ospiti, la standing ovation che ha preso Rita Pavone mentre canta Mi Vendo, che è un tesoretto molto seriano, certo, i 3 minuti in piedi della gente, erano 10.000 persone, a sera, beh, insomma, probabilmente lì lei ha capito che poteva continuare e ha ricominciato come fosse una bambina, con la stessa curiosità, gli stessi occhi, come dire, sì, e la stessa professionalità anche. Non ce la faccio a dire tutto in 3 minuti, ma insomma forse spero di aver preso l'idea di che, lo di hai che fatto, cosa è Rita. Lo hai fatto. Grazie Emilio, sei stato gentilissimo. Aspettiamo i tuoi prossimi libri. Ciao. Grazie a te Enrico, grazie a voi e buon ascolto. È bello dare dei colpi d'ala anche magari fuori dai confini del tuo paese e comunque fuori dai confini dell'immaginabile. Ecco, Rita Pavone è stata questo, ha fatto cose che nessuno immaginava che potessero accadere a un cantante italiano, ed è ancora viva e operativa, è anche una, per dire, attiva sui social, dove si prende delle belle responsabilità, e quindi insomma ci piace anche per quello. Ognuno di noi nella vita può rischiare di cadere, ma può anche darlo quel colpo d'ala che ti fa volare in alto. Se volete mandare dei commenti o segnalarci altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, scrivete al nostro sito, scrivete ai miei social, ai nostri social, insomma, se volete, lo sapete. Mi trovate. Ciao, a lunedì. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno. Produzione a cura di Luigi Speciale e Chiara Compagnoni.